everything. Oh, it hurts when you're too blind to see. Please don't read my mind, I tell the truth. Rescuing. Just relax, it's what Jesus would do. We're made in His image, baby. Let's ride this thing through. Oh, it hurts when you're too blind to see. Su CRM Happy Radio, naturalmente all'interno di Semplicemente Insieme. A proposito di Robbie Williams, è al settimo cielo dalla gioia. Il cantante ha infatti annunciato sul blog del suo sito ufficiale che presto lui e la compagna Ida Field diventeranno mamma e papà. Ehi amici, ve l'ho tenuto nascosto, scrive il cantante. Io e Ida diventeremo mamma e papà quest'anno. Abbiamo visto l'ecografia, abbiamo pianto, guardato i bimbi negli spot pubblicitari con le lacrime agli occhi, conclude l'artista. La camera per il piccolo è già in progetto. Fondamentalmente sono innamorato di una piccola persona che cresce nella pancia di sua mamma e non vedo l'ora di essere papà. Sto piangendo ora, dice. Ida Field con Robbie Williams si sono sposati il 7 agosto del 2010 dopo solo un anno di fidanzamento. Bene. Facciamo allora tanti cari auguri a questo ragazzone un po' scanzonato che faceva parte, vi ricordo, del gruppo dei Tech Death. Questa canzone che già sentite in sottofondo la dedico, voglio dedicarla a una persona speciale, a una piccola grande donna, un nome con un nome bello, dolce. Lei, Deborah, un bacio grande. Noi due non ci parliamo, noi due non ci vediamo, noi due due foglie cadute dallo stesso ramo, noi due che del terrore abbiamo fatto amore, noi due due arterie diverse dello stesso cuore. Tu, ora dove sei? Se vivi un'altra storia, con chi stai? Chi ti prenderà? perché non ci parliamo, perché non perdoniamo, noi due, due foglie cadute dallo stesso ramo. Tu dimmi dove sei, se vivi un'altra storia con chi stai, lui ti prenderà, lui ti stringerà, questa canzone che dedico alla piccola grande donna Deborah, unica come te, un bacione grande grande grande. Vi ricordo i numeri per le vostre richieste, le vostre segnalazioni, il 335 56 37 251 e ancora lo 0921 92 32 92. Vi ricordo che potete seguirmi in diretta streaming sul sito www.crmhappyradio.it. mi raccomando, fatevi sentire, io starò con voi sino alle 17. Noi continuiamo ancora con la bella musica di CRM Happy Radio. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today. Ooh, ooh. I would hold you in my arms, I would take the I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. Ooh. Would you tell me I was wrong? Would you help me? Looking back, oh, I'm sorry for blaming. Bellissima voce quella di Christina Aguilera con Art, bella bella bella veramente. A proposito di questa straordinaria cantante, annuncia che presto arriverà il suo nuovo album. Reduce dal flop di Bionic, la pop star rilanciata dal talent musicale The Voice, di cui è giudice, confessa che stavolta non cederà alle pressioni dei produttori. In un'intervista dice: sta arrivando il mio nuovo album, sono molto contenta, molto emozionata, sarà un progetto di qualità, non di quantità. Non mi piace ricevere le canzoni dai produttori, dice, voglio che questi arrivino da un rapporto personale, sarà forte. Ancora non ci sono delle date ufficiali, ma Christina Aguilera assicura che il nuovo album sarà presto disponibile. L'Aguilera stavolta non vuole sbagliare e si è presa tutto il tempo necessario per scegliere i brani e adesso finalmente può tirare un sospiro di sollievo. Dice, sono molto contenta, sarà divertente, emozionante, introspettivo e fantastico. E quindi noi aspettiamo sicuramente l'uscita di questo suo nuovo album. Adesso passo a salutare su questa canzone che è già sentita in sottofondo, Rosy, un'amica di CRM che ci ascolta sempre. Un bacione grande e buon ascolto con Tiziano Ferro. La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro, sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia un errore. E io ho tre certezze, una pinta e qualche amico, tu hai molte domande, alcune pesse, me lo dico. Me e te, elementare, non volere andare via. La mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. L'inutilità di queste insicurezze non te lo direi. Ma se un bel giorno affacciandomi alla vita tutta la tristezza fosse già finita, io vorrei da te. Come sto, il tuo sorriso spegne i tormenti, le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, oh, me e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia bellissimo. Penso sia bellissimo. What she wears, what she wears, what she wears. Birds singing on.

di Adriano Celentano. Tutto bene quel che finisce bene, perché dopo che Roma aveva sollecitato il clan Celentano per devolvere il cachet di Sanremo alle famiglie bisognose come era stato promesso, ecco che la RAI ha consegnato dopo meno di 24 ore dall'appello i 700.000 euro al molleggiato. Il clan fa sapere che già oggi sono partiti bonifici in beneficenza. Infatti, dopo l'appello del Campidoglio, il clan aveva replicato che Adriano Celentano avrebbe rispettato la promessa di devolvere in beneficenza il cachet del Festival di Sanremo di circa 700.000 euro. Ricevuto quindi questa mattina il pagamento da parte della RAI, sono partiti i primi due bonifici in beneficenza. Il primo andrà al due ospedale di Emergency, ecco che comincio con le papere, centro chirurgico e pediatrico in Sierra Leone, e all'ospedale di cardiochirurgia in Sudan, mentre gli altri 500.000 euro sono destinati a 25 famiglie e sono stati date delle disposizioni al notaio di Sanremo per inviarle ai sindaci delle 7 città coinvolte. Bene, devo dire, una bella iniziativa. Era giusto che facesse questo, è giusto aiutare chi sta peggio di noi. Quindi bravo Adriano Celentano, bravo. E noi continuiamo con la bella musica, a richiedercela è Chiara, che saluto, un bacio grande. Questo è il nuovo di Norah Jones, Happy Pills. Trying to pick up the pace, trying to make it so I never see your face again. Time to throw this away, wanna make sure that you never waste my time again. How does it feel, oh how does it feel to be you right now, dear? You broke this apart, so pick up your piece and go away from here. Please just let me go now. Please just let me go. Won't you please just let me go now? Please just let me go. I wanna get you out. I wanna get you out. I wanna get you out of my head. Get out. I wanna get you out. I wanna get you out. I gotta get you out of my head. Get out. Never said we'd be friends. Trying to keep myself away from you, 'cause you're bad, bad news. With you gone, I'm alive. Makes me feel like I took happy pills and time stands still. Jones, questo è il nuovo singolo della cantante jazz, bellissimo, bello, orecchiabile, carino, mi piace. E saluto Chiara naturalmente, che ce l'ha richiesto sempre qui al 335-5637-251. E noi continuiamo ancora con la bella musica. Dammi lo spazio e il tempo I just wanna Ed eccomi tornate in studio, naturalmente siete sempre in diretta su CRMP Radio all'interno di Semplicemente Insieme e noi continuiamo ancora con la bella musica, Cat Stevens. It's not time to make a change, just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Change, just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have. E su questa canzone saluto Gaetano che in questo momento mi sta ascoltando. Un bacione grande grande Gaetano, mi raccomando fai il bravo, eh? Ok, e noi continuiamo ancora con Francesco Baccini. Uomini sempre più ansiosi, sull'orlo di una crisi, con nuove nevrosi, sogniamo dell'arrivo di donne stanotte in città. Donne motori, chi ci salverà? Siamo maschi contro femmine, siamo libri senza pagine, Sansone contro Dalila, vicini a una voragine. E poi facciamo l'amore, dimentichiamo che siamo fatti così. E dopo fatto l'amore ci rivestiamo, ti chiamo lunedì. Siamo maschi contro femmine ed è un'eterna disputa, senza

con me insieme a Jerry ancora per quel, sì, ancora per un po', sì, dai, però poi naturalmente ritornerò insieme a voi sempre venerdì e noi continuiamo con la bella musica e facciamo un passo indietro. Questa è divertente, simpatica, Elton John, Crocodile Rock. A proposito di Elton John, ammette che avrebbe potuto morire come la Houston se non avesse abbandonato droghe e alcol nel 1990. Avrei potuto fare la stessa fine di Whitney Houston, spiega ancora al News. È un miracolo che non mi sia successo, perché sono sicuro di essermi fatto tanta cocaina quanto lei. Sobrio e pulito dal 1990, il Rockman ora ha trovato una nuova serenità con il suo partner ventennale David Furnish e il loro piccolo bimbo di 14 mesi, Zachary. Non sarei la persona che sono oggi se non avessi Zachary e David. Non avrei niente, probabilmente sarei morto. Una fonte ha anche rivelato al Daily Mirror che David ed Elton stanno pensando di espandere la loro famiglia e credono anche che sia il momento giusto per pianificare un altro bambino, aggiungendo tra la fine di quest'anno e l'inizio del prossimo anno ci sarà un quarto membro nel clan John Furnish. Loro adorano essere genitori. Bene, facciamo allora gli auguri a questo Elton John grande, grande artista, grande voce. E noi proseguiamo con la bella musica, e su questo brano io vado a salutare Giovanna, che ce l'ha richiesto sempre qui al 335-56-37-251. Ho dato la vita e il sangue per il mio paese, e mi ritrovo a non tirare a fine mese in mano a Dio le sue preghiere. Ho giurato fede mentre diventavo padre, due guerre senza garanzie di ritornare, solo medaglie per l'onore. E se qualcuno sente queste semplici parole, parlo per tutte quelle povere persone che ancora credono nel bene. E se tu che hai coscienza guidi e credi nel paese, dimmi cosa devo fare per pagarmi da mangiare, per pagarmi dove stare, dimmi che cosa devo fare. No, questo no, che ha 30 anni, teme il sogno di sposarsi alla natura, di diventare padre. E se sapesse quanto sia difficile il pensiero che per un giorno di lavoro c'è chi ancora più diritti di chi ha creduto nel paese del futuro. Inferno, Emma, grande artista, brava, brava, brava. Più l'ascolto questo brano e più mi piace. E noi ancora continuiamo con Madonna. Don't play the stupid game, 'cause I'm a different kind of girl.

cuore che batte più forte quando sto con te. Quando il mondo mi sembra più bello inizia ad essere. Perché è vero che ci sei, se ci sei. Perché è vero che ci sei. È vero che ci siete, sì, ancora ci siete a tenermi compagnia e a tenere compagnia a voi, sì, bene, bene, bene. A proposito di Alessandro Casillo, il vincitore del Festival di Sanremo Giovani, esce il diario Viaggio, dal titolo È vero, da Io Canto a Sanremo, appunti, emozioni, immagini, momenti, un diario viaggio di questo momento magico descritto attraverso quindi immagini esclusive. I capitoli che compongono il libro incorniciano quindi passaggi più intensi, dalle da bambino che strimperà la chitarra al suo debutto nel mondo della musica con Io Canto. La passione per il calcio, portata alle stelle grazie alla nazionale cantante, il primo live davanti al pubblico dell'Arena di Verona che toglie il respiro. E ancora il lavoro di preparazione del disco tra studio, servizi fotografici e interviste fino ad arrivare al palcoscenico quindi di Sanremo, dove la voce si rompe per l'emozione portando in serbo quindi la vittoria. Il book si conclude con un omaggio di Ale alle persone che fanno parte della sua vita, gli amici di sempre, i compagni di scuola, i professori e le persone che ogni giorno lo aiutano a far sì che i suoi sogni e che i piedi rimangano ben saldi a terra e si completa con alcune pagine diario destinate ad annotazioni ed autografi con un mega poster. Bene, bravo Alessandro Casillo, così giovanissimo, a soli 15 anni già ha raggiunto una bella popolarità. Bravo, bravo, bravo. E noi continuiamo ancora con la bella musica, naturalmente siete sempre in compagnia di Jerry, ancora per un quarto d'ora circa, e andiamo ad ascoltare Shakira. Es tan extraño, duro como una roca. Si te mostré pedazos de piel que la luz del sol aún no toca. Y tantos lunares que ni yo misma conocía. Te mostré mi fuerza bruta, mi talón de Aquiles, mi poesía. Eras solo una historia más. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis, mucho antes. No dejes el barco tan tonto este que zarpemos hacia alguna isla desierta y después, después veremos. Si me ves desarmada, ¿por qué lanzas tus misiles? Si ya conoces mis puntos cardinales, los más sensibles y sutiles. Dejarás, la vida lo dirá. ¿Qué haré si no te vuelvo a ver? Oh, oh. Si desde el día en que no estás ni la noche llega mucho antes de las seis. Si desde el día Shakira, antes de las seis, bella questa canzone, bellissima. E adesso continuiamo, la prossima canzone è Rita, a dedicare alla sua amica Isabella con un messaggio. Ti aspetto al Tre Stelle di Termine. Termini. L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione?

dancers may be on the floor. Yeah, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I go weak. I can hear the sound of the wings long before it begins. Then you feel as only you know how. Sway smooth, sway now. Then you feel as only you know how. Sway smooth, sway now. Siete ancora qui con me, ancora per qualche minutino, sì, sì, ancora qualche minutino e poi ci dovremmo salutare. Intanto adesso continuiamo e su questa canzone che già sentite in sottofondo saluto un certo Micio Micio Bau Bau che ce l'ha richiesta naturalmente sul nostro sito su www.crmepiradio.it. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu. A volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà. Tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu. Tu sei troppo distratto. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre. Sì, però guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso. Se non fa rumore l'anima e quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, se ne accorge non sei tu, nel tuo sguardo distratto. Confuso, non avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. E ora vedi che sto ridendo, e chi mi guarda non sei tu, tu eri sempre distratto. Sto divertendo, chi mi cerca non sei tu, ma eri troppo distratto. Strappati tu e non volermi male adesso. E questa era l'ultima canzone in programma per oggi. Sì, siamo arrivati alla fine, sono le 17.01. Non mi resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con i programmi di CRM. Naturalmente noi ci rivedremo e ci risentiremo venerdì, sempre a partire dalle 15 sino alle 17. Un bacione grande a tutti voi. Saluto Marco che ci ha fatto una richiesta e sicuramente ti accontenterò subito dopo. Un bacione grande a tutti, fate i bravi e ciao.